Lo dico io o lo dici tu, Domenico? Dillo tu. Ok, dunque, noi abbiamo due risposte così velocissime a delle sollecitazioni che sono giunte. Noi lunedì sera abbiamo avuto la nostra assemblea plenaria del Cambiamo Abbiate Grasso, della nostra, non so come chiamarlo, gruppo, forza politica, forza civica, non siamo tanti, e quindi ci siamo trovati lunedì sera in fiera, dopo aver aspettato un po' al freddo perché il comune si era dimenticato di aprirci la sede, e abbiamo approvato il programma con il quale ci presenteremo alle elezioni e che verrà presentato a breve. E una delle cose che è prevista nel nostro programma è l'istituzione di un assessorato all'agricoltura e all'urbanistica unico. Chi si occupa di territorio si occuperà di agricoltura, di territorio, di urbanistica, perché le cose stanno insieme. E nel nostro programma c'è anche l'istituzione di un laboratorio di agriurbanistica, perché, come dicevamo prima, la terra dobbiamo metterla al centro. Sulla filiera corta, una delle cose su cui noi punteremo tantissimo, e lo vorremmo fare poi insieme a voi, capendo anche come sarà possibile farlo, sarà quello di alimentare i nostri bambini, devono mangiare i nostri prodotti. Ma non è un istinto leghista questo, no? I nostri bambini devono mangiare i prodotti e voi, gli agricoltori, devono avere la certezza da parte dell'amministrazione di avere commesse per avere una certezza di futuro. Se passo da 10 ettari a 20 ettari a ortaggi o a frutta, io devo essere sicuro che ci sia un mercato. Cercheremo di far crescere il mercato dei gruppi di acquisto solidale, dei cittadini abetensi attraverso la conoscenza, ma soprattutto noi abbiamo un grandissimo mercato istituzionale. Abbiamo migliaia di... Quanti sono i bambini delle nostre scuole? Elementari, materne, medie, delle scuole superiori, le messe aziendali. Ci sono migliaia di cittadini che mangiano tutti i giorni ad Abete Grasso e mangiano cibo non a filiera corta o filiera diretta. Noi vogliamo fare questo, vogliamo creare una possibilità per dare modo agli agricoltori di non arrivare alla fine dell'anno con i conti in rosso, ma di arrivare alla fine dell'anno con i conti in verde e di aumentare anno dopo anno il pezzo di terra e aumentare anche l'amore dei cittadini, perché se i cittadini che attraversano il nostro territorio vedono che lì ci sta il loro futuro, lo ameranno di più. Se attraversano velocemente a 90 all'ora su un'autostrada, su una tangenziale, su uno svincolo, lo ameranno sempre meno e cresceranno in maniera esponenziale i sacchetti dell'immondizia che fanno rabbia a tutti noi attraversando la nostra vallata. Dobbiamo far diminuire anche quello, accrescendo non soltanto l'amore per il territorio, ma la difesa. Dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti, il nostro territorio, anche dall'ignoranza.